Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di mercato, parliamo di concorrenza, parliamo di economia, ovviamente. Lo facciamo sulla base di un libro, La concorrenza è spietata, editore Guerini e Associati. Gli autori sono Massimiliano Di Bitetto, Salvatore Pettineo e Paolo D'Anselmi, che questa sera è qui con noi. Buonasera, dottor D'Anselmi. Buonasera a voi. Paolo D'Anselmi è consulente di organizzazione aziendale, autore di altri libri su questi argomenti e ha raccolto appunto in questo volume, un volume non certo impegnativo, sono 150 pagine ma molto dense, alcune osservazioni importanti sul fronte della realtà del mercato, della realtà di un mercato che molto spesso viene indicato come il luogo, quasi come una giungla, di una concorrenza spietata, appunto come dice il titolo, di un liberalismo sfrenato. Ma la concorrenza è fondamentale per dare efficienza, per dare efficacia al mercato. Perché la concorrenza ha questa immagine un po' negativa? Paolo D'Anselmi. L'immagine negativa della concorrenza è, secondo me, soprattutto proposta da chi non è soggetto a concorrenza. E quindi si parla di concorrenza spietata cercando di fuggire dalla concorrenza, come è umano che sia, lo diceva già Adam Smith. Solo che chi non è soggetto a concorrenza ha il tempo e la forza sociale per parlare di concorrenza spietata. Chi è soggetto a concorrenza sta chino sul fatturato e non ha neanche il tempo di prendere coscienza e inalberare la bandiera della concorrenza per dire: guardate che io comunque un valore sociale ce l'ho e sono soggetto a concorrenza. Ecco, infatti tra le prime righe di questo libro c'è scritto: la vera concorrenza spietata è quella che non c'è. E poi si passa subito a un capitolo in cui si dice: elogio della concorrenza. Allora, siamo in un sistema economico in cui si parla molto di concorrenza, ma c'è una grande fascia del sistema economico che sfugge alla concorrenza, che evade la concorrenza. Assolutamente sì, c'è una, e questa parte, diciamo, se calcoliamo in 22 milioni il lavoro in Italia, cioè il numero degli occupati in Italia è di 22 milioni, abbiamo un numero che valla tra i 5 e i 6 milioni di occupati che non sono soggetti a concorrenza. Cioè, quindi chi sono? Dove appunto stanno? Allora, ce n'è 3 milioni e 3 nella amministrazione pubblica secca, intesa in senso stretto, e gli altri, un milione e sette, un paio di milioni rotti, stanno nei settori fortemente protetti. Andiamo dalle utility, i settori regolamentati, cioè acqua, luce, gas, tutto ciò che è stato non definito come tale, cassa, depositi e prestiti, tutto ciò che è le in-house dei comuni. Ci sono le municipalizzate, ci sono aziende in casa, fatte in casa, ci sono 7.000 aziende fatte dai comuni che sono aziende, società per azioni, ma sono sostanzialmente amministrazione pubblica. Ecco, ma si tratta di monopoli che comunque esistono perché, diciamo così, devono esistere. Gli economisti parlano di monopoli naturali. No. Ma la pubblica amministrazione deve essere pubblica amministrazione, la carta d'identità deve rilasciarla il comune, non può rilasciarla un singolo cittadino. Certo, ma non è detto che debba essere rilasciata in condizioni di monopolio, nel senso che non è detto che ci debba essere per forza uno specifico impiegato comunale, lui o lei solo, che possono rilasciare la mia carta di identità. Invece ci sono, questo qui dipende dalla organizzazione, da quelli che in economia si chiamano gli assetti organizzativi, che non sono assolutamente determinati, deterministici, e invece tendiamo a organizzarli in maniera monopolistica, creando un potere dell'uomo sull'uomo sostanzialmente. E quindi potremmo parlare di un modo di concorrenza virtuale, far entrare la concorrenza non di fatto, perché non possiamo mettere in concorrenza effettiva due persone, però in un modo di controllare con dei parametri, con delle logiche appunto di concorrenza, anche il lavoro svolto in monopolio? Assolutamente sì, cercando di generare una pluralità di enti che possono fare la stessa cosa. Non è necessaria la privatizzazione, per carità, anche quello è un altro anatema, ma non ne vogliamo parlare oggi. Dobbiamo parlare di pluralità di enti, di pluralità di organizzazioni che possono fare la stessa cosa, per generare poi un confronto fra questi. Ma il rischio non può essere quello di moltiplicare le strutture, quindi di moltiplicare i costi? Assolutamente no. Noi abbiamo questa tendenza all'accorpamento, c'è questa un po' vulgata, mi perdoni, delle economie di scala nei servizi, per cui si fonde INPS con INPDAP per risparmiare lo stipendio di un presidente, si immagina di fondere ANAS dentro le ferrovie dello Stato, non lo so per risparmiare che cosa, perché per fare in modo che si parlino. In tal modo si generano delle organizzazioni grandissime dentro le quali è difficilissimo andare a fare dei confronti di efficienza ed efficacia. Nei servizi quello che conta è il gruppo, è più importante avere una pluralità di entità diverse che fanno cose analoghe se non identiche e andarle a mettere appunto in concorrenza virtuale fra loro, che accorpare e generare una notte in cui tutte le vacche sono grigie, mi perdoni. No, efficace rende l'idea, però ci sono alcuni settori, mi perdoni, che sembra difficile moltiplicare, per esempio le ferrovie. Fare una ferrovia ad alta velocità tra Milano e Roma, si può farne due, sarebbe uno spreco. Certamente, però lei ha toccato un bellissimo punto tecnico, però c'è la concorrenza sulle ferrovie, c'è un monopolio. 30 anni fa si pensava alle ferrovie come una cosa, appunto, una scatola nera che andava dalla traversina al caffè a bordo, allo spaghetto servito caldo a bordo. Già 30 anni fa, con Gianfilippo Cuneo, e era allora presidente delle ferrovie Lodovico Ligato, immaginammo una ferrovia spacchettata in cui si distingue l'infrastruttura dal movimento, cioè dal servizio, da chi gestisce il treno che rotola sull'infrastruttura monopolistica, ma i treni sono plurali, pluralistici, e così via discorrendo. Oggi in sedicesimo, ancora in piccolo, ma abbiamo questa forma di concorrenza. Immaginiamo che questo si può fare su tutto. Se si può fare sulle ferrovie, che è la cosa più ferrosa del mondo, si può fare anche nella riscossione delle tasse. E quindi, guardando all'Italia, appunto, qualcosa si è fatto su certi fronti, si è da una parte privatizzato dove non si poteva privatizzare, si è aperto comunque al mercato, ma a che punto siamo? Quali siamo sono indietro. I passi ancora da compiere? Siamo indietro, le famose riforme strutturali sono queste. Si tratta di spacchettare ciò che è ancora incrostato e considerato ineluttabilmente monopolistico. È morto da poco il professore Zygmunt Bauman, che si preoccupava della liquidità nella nostra società. Io, più che preoccuparmi di ciò che è liquido nella nostra società, mi preoccuperei di ciò che è ancora incrostato. Quindi la nostra missione è liquefare le incrostazioni. Ecco, c'è un punto del libro, sono alcuni punti del libro che non vorrei perdere in questa conversazione, ed è il fatto di valorizzare il lavoro. Lei parla che in Italia si parla tanto di evasione fiscale, si parla poco di evasione dal lavoro. Quando non c'è concorrenza c'è chi evade dal lavoro, e questo è un costo per la società, è un costo di efficienza, è un costo anche economico, è qualcosa che spiega anche la perdita di competitività della realtà italiana, così? Assolutamente. Questa è la riforma da fare che avevamo detto che avremmo dovuto fare entrando nell'euro e che non abbiamo fatto. La evasione del lavoro non è il nascondersi, non è il fannullone teorizzato in maniera ineccepibile dal professore Ichino. La evasione del lavoro è qualcosa di più pervasivo e che è, come dire, inerente anche in chi lavora tanto. Perché il lavoro che non ha una corrispondenza, che non è messo di fronte a un cliente, che non è messo di fronte alle conseguenze, all'impatto, alle conseguenze ultime della propria attività, è intrinsecamente evaso. Quindi anche una persona che sta in ufficio fino a mezzanotte probabilmente sta generando lavoro per se stesso, si affatica molto, ma non lavora. Ecco, ed è interessante, andando verso la conclusione, un esempio che fa Francesco Forte nella sua introduzione, che è quello che la rappresentazione migliore di una società fondata sul lavoro è il gioco del calcio, perché nel calcio si accettano le regole, la giustizia è veloce, la corruzione c'è da affrontata, si accetta la concorrenza, ma la concorrenza non è spietata, perché chi viene retrocesso in Serie B continua comunque a giocare e così via. Quindi l'espressione del gioco del calcio come un'espressione in cui di fatto si gioca in campo aperto e ognuno dà il meglio di sé. Certamente, il professore Francesco Forte, che ringraziamo perché ha voluto fare la prefazione di questo libretto, è stato favorevolmente impressionato nel leggere il libro da quello che noi riportiamo a pagina 127, dove c'è un dodecalogo che mostra come noi italiani, che siamo tanto appassionati di calcio, se trasferissimo, attuassimo la forma del calcio nel nostro lavoro e nella nostra società, nella nostra economia, avremmo molto da imparare. Parlando di concorrenza, la concorrenza non è spietata, perché anche chi perde domenica rigiocherà domenica prossima, e chi vince non è che ammazza chi perde, perché sennò domenica prossima con chi gioca? Ecco, e speriamo che il gioco sia anche interessante e divertente, e speriamo che sul fronte economico questa Italia possa riuscire a fare le riforme di cui ha bisogno. Grazie a Paolo Donselmi di essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Abbiamo parlato del libro La concorrenza è spietata, scritto appunto da Paolo Donselmi con Massimiliano Di Bittetto e Salvatore Pettineo, edito da Guerini Associati, sono 150 pagine per 15 euro. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.